Contenuti tantissimi, più o meno ogni stagione portiamo avanti più o meno sui 120 eventi a stagione, quindi tanti. Siamo già partiti ad aprile, siamo con due festival abbastanza grossi che hanno portato un sacco di pubblico e quindi hanno riempito il parco, per cui siamo sempre molto felici. Adesso con la rassegna Montagna della Republic, ad esempio qui il 3 giugno presenteremo Gaemon, che presenta a sua volta il suo libro insieme a Murubutu. Ospiteremo Godano dei Marlene Kunz e ospiteremo Giulia May fino ad arrivare alla Municipal sempre a giugno, e luglio Bassi Maestro, e poi insomma abbiamo con grande orgoglio ospiteremo anche Ricamù a settembre, ma questi sono solo quelli annunciati, ecco. Siamo sempre lì dalle 10 del mattino fino a tarda notte, quindi siamo lì a presidiare il parco e a cercare di allietare tutti gli avventori. E anche la possibilità di aggregazione, di convivio anche per... Assolutamente sì, il parco della Montagna Spagnola è il parco del centro città, questo è lampante, ed è attraversato da un sacco di persone, ma soprattutto da un sacco di tessuto sociale che si sta creando, dai bambini della scuola agli anziani che vengono a prendere il semplicissimo fresco, e poi ovviamente da tutti i ragazzi e le ragazze che vengono a vedere i concerti.